For the unknown person who wants to see him into history is now become a story of love. Su strade dimenticate, abbandonate allo stesso esistere, parole di fango come emanate, avvolti dalle sembianze febbricitate. Strade sulle quali piccoli principi di fortuna e virtù si trasformano in piccoli principi delle tenebre. Su strade dimenticate, abbandonate allo stesso esistere, parole di fango come emanate, avvolti dalle sembianze febbricitate. Strade sulle quali piccoli principi attraverso droghe ed esperienze mistiche, dove frasi tradite con le rasoie spussano bandiere di bellezze vere e durate, facendo passare per menzioniere anche le realtà più vere, anche le realtà più vere. Giù gli inferi glorificati attraverso droghe ed essenze mistiche, dove frasi tradite con le rasoie spussano bandiere di bellezze vere e onorate, facendole passare per menzognere, tragedie si compiono ogni dove, quando e come nessuno poi lo verrà a sapere. Le notizie che il telegiornale non vuole annunciare, per non avere il brusco finale di una popolazione sconvolta. Tragedie si compiono ogni dove, quando e come nessuno poi lo verrà a sapere. Le notizie che il telegiornale non vuole annunciare, per non avere il brusco finale di una popolazione sconvolta. Di una popolazione sconvolta. Le notizie che il telegiornale non vuole annunciare, per non avere il brusco finale di una popolazione sconvolta. Tacciano le madri e i padri sulle ingiustizie e cospirazioni, tutti i figli vivano giorni più sereni, ma questo non fa crescere, non fa svegliare, non prepara alle ere più fredde del durare. E basta così una serata di sole, i veri nemici alle porte del vero del vivere, a cancellare totalmente intere pagine di spartiti del loro cuore. Molte volte la storia gira intorno a persone dimenticate, abbandonate, e solo dopo la morte ricordate. Vengono arricchiti i loro assassini e ancora di più umiliate, ed è ora per queste di alzare le teste e stracciare le pagine di paradiso, dove sembravano in vero perse, e rifarsi nuove vite. Tacciano le madri e i padri sulle ingiustizie e cospirazioni, che i figli vivano giorni più sereni, ma questo non fa crescere, non fa svegliare, non prepara alle ere più fredde del volare. E basta così una serata di sole e di veri nemici alle porte del vero, del vivere, a cancellare totalmente intere pagine di spartito dei loro cuori. Tragedie si compiono ogni dove e come e quando, nessuno poi lo verrà a sapere. Le notizie che il telegiornale non vuole annunciare, per non avere il brusco finale di una popolazione sconvolta. Di una popolazione sconvolta. Così i piccoli principi di